Viva voce. Buongiorno da Laura Bettini. Per l'economia italiana è tempo di donne, vi faccio questa citazione. Più precisamente è tempo di donne occupate, di più famiglie con due percettori di reddito, di più talenti femminili scoperti e valorizzati. L'ha detto il ministro Mara Carfagna 2 giorni fa nella sua audizione alla Camera di fronte alle commissioni affari costituzionali e lavoro. Parole che, non solo perché donna, ma parole che mi piacciono molto, mi auguro piacciono molto anche ai nostri ascoltatori, perché è importante che le donne facciano carriera, che tengano, che abbiano cura delle loro famiglie, dei loro figli, degli anziani, della famiglia. Ma insomma, nell'Italia di oggi è possibile, per così dire, salvare capre e cavoli o comunque salvarli in maniera onorevole senza diventare mamme acrobate o donne acrobate? C'è una rivoluzione in atto in Italia per quanto riguarda anche le mamme, le donne comunque che hanno famiglia. Questa rivoluzione viene ben presentata da Francesco Billari, professore di demografia all'Università Bocconi di Milano, e Gian Piero Dalla Zuanna, professore di teorie di popolazione all'Università di Padova. Hanno scritto La rivoluzione nella culla, un volume che è edito dalla Università Bocconi. Con noi abbiamo Gian Piero Dalla Zuanna. Buongiorno. Buongiorno. E poi abbiamo ovviamente altri ospiti, uno ve l'annuncio subito perché è Isabella Rauti, che è stata consigliera nazionale di parità, membro effettivo dal 2003-2007 presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, attualmente capo dipartimento Ministero Pari Opportunità. Buongiorno anche a lei. Buongiorno a voi. So che ha qualche problema di raucedine, cercheremo di non farla troppo sforzare. Comunque, ovviamente, lei se avrà problemi nel corso della trasmissione ce lo dica e le daremo il tempo, insomma, di un bicchiere d'acqua, un po' di miele, quello che serve. La ringrazio. Grazie comunque della presenza. Io comincio a coinvolgere il professor Dalla Zuanna, perché appunto voi scrivete: il declino della popolazione italiana è finito, la popolazione resterà stabile con gli attuali flussi di ingresso degli immigrati, ma non solo, voi evidenziate anche un recupero della natalità, in particolare al nord e in particolare tra le donne che lavorano, le donne che sono in carriera, così? Sta accadendo in Italia ciò che è già accaduto in altri paesi europei, in particolare del nord Europa, che riescono ad avere più figli, in particolare riescono ad avere il secondo e anche il terzo figlio, le famiglie che sono messe in condizione di farlo, in particolare quelle che hanno un reddito sufficiente per poterlo fare, tipicamente dove entrambe i coniugi lavorano, e quelle che riescono a conciliare bene il lavoro per il mercato e il lavoro domestico. Questo accade in particolare dove, da un lato, dove l'uomo è coinvolto nelle faccende domestiche, in secondo luogo dove la famiglia allargata può aiutare quando si abita vicino ai propri genitori, e poi quando c'è un sistema attorno di servizi che rende appunto compatibile il lavoro per il mercato con il lavoro della cura. Quindi lei ci ha già anticipato quelli che poi voi presentate come essere i pilastri, 3 pilastri, un welfare per sostenere la famiglia, un welfare generoso, quindi parliamo di poi assegni familiari, sgravi fiscali, una divisione dei compiti interna alla famiglia in cui l'uomo sia molto partecipe o comunque forse più partecipe di quanto non sia stato in passato, e poi un mercato del lavoro un po' più flessibile, diverso, che possa venire incontro alle famiglie. Nella vostra ricerca, che parte hanno i figli degli immigrati? I figli degli immigrati sono importanti, diciamo, in questa ripresa della fecondità, ma non importantissimi. Ci sono diverse stime, ma possiamo dire che una parte, circa il 30% della ripresa, no, della fecondità in Italia al centro-nord, perché è concentrata al centro-nord questa ripresa, può essere addebitata ai figli degli immigrati. Perché la realtà è che quando gli immigrati vengono in Italia, rispetto a quelli che restano nel paese d'origine, diminuiscono la loro fecondità. Era successo lo stesso per gli italiani che dal sud sono andati al nord, e sta succedendo la stessa cosa anche per le persone che dal Marocco, dal Pakistan, da altri paesi dove ancora nascono tanti bambini, vengono ad abitare in Italia. Perché tendenzialmente c'è un questo tipo di comportamenti subiscono un processo di, chiamiamola, di assimilazione, cioè diventano simili, no? Perché cioè, si comportano come la popolazione italiana, quella che vive qui, insomma. Beh, non proprio da come, sempre. Nel senso, di solito prendono lentamente. Mezzo, ecco, il trend è quello di avvicinarsi al comportamento degli italiani. La cosa interessante, un dato che non citiamo sul libro, ma è molto carino, stiamo vedendolo proprio adesso, è che i loro figli, i figli degli immigrati, quando gli chiedi quanti figli vogliono avere, ti dicono un numero più basso di quello degli italiani. Ossia, vedi proprio che questi ragazzi assimilano l'idea della bassa fecondità come un modo per poter avere più tempo e avere, no, anche più si poter impegnarsi di più nel lavoro per il mercato. Quindi sostanzialmente diventano più italiani degli italiani per certi versi. Mm-hmm. Quindi sostanzialmente le misure che prenderemo per gli italiani oggi saranno utili poi ai giovani tutti di domani. Senza dubbio, perché gli italiani di domani saranno quelli che adesso noi chiamiamo i ragazzi stranieri di oggi. Del resto abbiamo visto, no, come in America è stato eletto un presidente che era figlio di un'americana e di un immigrato, e di un immigrato, e ciò in prospettiva succederà anche in Italia. Insomma, fra poco avremo forse, no, il centravanti della nazionale che sarà uno che proviene dall'Africa, no? Anche l'Italia si sta incamminando in questa direzione, e la direzione è tracciata ormai, ecco. Quindi insomma, non diamo tutto il merito dell'aumento della natalità agli immigrati, c'è anche una ripresa tra le italiane, ci saranno problemi comuni in futuro. Isabella Rauti, che misure possiamo prendere per sostenere questo andamento positivo finalmente in Italia? Sì, io tornerei da quanto è stato detto all'inizio, mi scuso per questo filo stridulo di voce, spero che si riesca a sentire. Si sente qualcosa. Benissimo, si sente benissimo, grazie. Tornerei a quanto è stato detto all'inizio, cioè rispettivamente al fatto che in alcuni paesi europei la tendenza demografica è positiva, ed è positiva lì dove, addirittura si parla del secondo e del terzo figlio, lì dove in realtà esiste una offerta discreta di servizi, quindi un sistema di welfare, non direi assistenziale, ma senz'altro un sistema di welfare solido e direi accogliente. Mentre sicuramente in Italia il tasso demografico è un tasso basso, per quanto ci sia stata una piccola inversione di tendenza, quindi un incremento positivo, il tasso resta basso, ma soprattutto, e mi riallaccio a quanto è stato detto, c'è uno scarto sul quale dobbiamo riflettere tra le aspettative dichiarate di fecondità, cioè quanti figli si vorrebbe avere, e quanti figli poi di fatto si fanno, perché secondo me è quello scarto che è indicativo di che cosa? Del fatto che poi una donna che magari ha anche una formazione curricolare elevata, che sosta nella soglia di pre-ingresso nel mondo del lavoro un certo periodo di tempo, che poi entra nel mondo del lavoro, ma e entra, diciamo, anche a parità di condizioni, però poi si scontra a un certo punto della sua vita personale e professionale con le scelte di maternità, si rende conto, e lì sconta queste scelte, si rende conto che la permanenza nel mondo del lavoro o il rientro nel mondo del lavoro, qualora ne sia uscita per motivi, diciamo, di cosiddetto lavoro di cura, si rende conto quanto sia difficile, appunto, conciliare le scelte e gli impegni lavorativi con gli impegni personali legati al lavoro di cura. Siccome allora, so che lei è un'esperta di conciliazione, adesso proseguiamo, volevo solo ricordare ai nostri ascoltatori che il numero verde per le loro telefonate, quindi le domande, le osservazioni, è l'824 0024, e quindi adesso proseguiamo parlando di conciliazione e poi sentiremo anche le esperienze dirette. Insomma, lei appunto aveva già introdotto il tema della conciliazione, conciliare i tempi del lavoro, no, con quelli della famiglia. Perché in realtà se noi stiamo alle riflessioni sui dati demografici, io non sono una demografa, mi occupo naturalmente da un altro punto di vista, certo, della questione, a me interessa chi fa molti figli e chi però non li fa perché li vorrebbe ma non li può fare. Questo credo che sia il nodo, diciamo, che lega i ragionamenti del libro La rivoluzione nella culla e i ragionamenti che possiamo fare noi come istituzione. Allora il problema, il nodo irrisolto è quello della conciliazione dei tempi. Da un lato è naturalmente importante, ed è stato già accennato, la condivisione dei ruoli all'interno della famiglia, cioè quanto si partecipa dal punto di vista anche maschile a quello che è il lavoro di cura. Però, e questo però non è parte del vostro lavoro, nel senso che è più una trasformazione culturale che deve intervenire. Questo richiede evidentemente una trasformazione culturale che però può essere aiutata da alcuni interventi. Penso per esempio a una revisione dei congedi parentali che erano contenuti nella legge 53 del 2000, che naturalmente riguardano sia il padre che la madre, ai quali per esempio il sottosegretario della famiglia sta pensando ad una modifica per renderli, come posso dire, più utili e più usufruibili. Quindi anche le istituzioni possono naturalmente aiutare quella che lei giustamente definisce però una necessaria rivoluzione culturale. Vorrei spiegarmi meglio: la condivisione evidentemente all'interno della famiglia non può essere imposta, può essere evidentemente favorita, no? Mentre quello che può essere organizzato è un sistema di misure che favoriscono appunto la cosiddetta conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Se le donne italiane sono meno occupate delle loro colleghe europee, e lo sono perché i dati lo dimostrano, e se le italiane fanno meno figli, non è che possiamo concludere che le italiane siano delle pigrone, no? Evidentemente ci sono questioni sociali ed economiche, nonché culturali e di costume, su quali bisogna riflettere. Per riflettere bisogna evidentemente affrontare il nodo, la questione irrisolta della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Mm-hmm. Senta, abbiamo già numerosissimi messaggi e anche ovviamente telefonate che arrivano dagli ascoltatori, perché il tema è sempre molto sentito. Ma a proposito di conciliazione del tempo del lavoro e della famiglia e di tutto quello che è necessario fare, le strutture che abbiamo adesso, e penso alle scuole, gli asili nido, le scuole materne, rispondono alle esigenze delle famiglie di oggi, oppure sono modelli buonissimi ma che ormai sono un po' fuori tempo? Innanzitutto, dal punto di vista quantitativo, sicuramente l'offerta è minore rispetto alla domanda, e questo lo sappiamo tutti. Dal punto di vista e anche rispetto agli obiettivi, no? Che ci siamo posti. Rispetto dal punto di vista qualitativo, sì, anche qui si può fare un ragionamento. Per esempio, noi come Ministero stiamo studiando questo pacchetto per la conciliazione, cioè un insieme di misure di sistema a cui faceva riferimento anche il Ministro nei giorni scorsi, in cui naturalmente prevediamo anche di affrontare la questione degli asili nido. In che termini? Uno può pensare di incrementare gli asili nido aziendali, che è un aspetto, o gli asili nella pubblica amministrazione, ma può anche pensare, e noi ci stiamo pensando, a un modello che mi pare un modello assolutamente vincente. Penso al modello di origine tedesca, per lo più, che è questo nido famiglia o Tagesmutter, che si tratta, semplificando, di una sorta di, sempre nell'ottica di favorire la conciliazione, di asili nido che possiamo definire condominiali, in cui alcune mamme, che si organizzate naturalmente in cooperativa secondo le regole, svolgono un servizio di assistenza ad un numero limitato di bambini di un'età prescolare. Penso sì, ne parleremo tra poco nella seconda parte della trasmissione, tra l'altro abbiamo ospiti proprio rappresentanti però per rispondere alla sua domanda, sì, gli asili nido sono evidentemente una delle misure fondamentali per gettare le basi di una conciliazione che di fatto oggi viene definita dagli esperti soggettiva e individuale. Lei prima parlava delle donne che fanno acrobazie quotidiane, mentre dobbiamo arrivare piano piano ma con determinazione a costruire quella che appunto viene definita non una conciliazione soggettiva e individuale, ma una conciliazione oggettiva, cioè data, organizzata, per cui veramente le scelte di maternità e di paternità possano essere libere e non condizionate naturalmente dai problemi lavorativi, dai problemi anche di appunto di conciliazione. E vorrei sottolineare, poi mi fermo, che la conciliazione non è soltanto una questione che riguarda le donne, la conciliazione di fatto deve riguardare le famiglie, perché riguarda sia le scelte di maternità che le scelte di paternità. non è una questione di donne, insomma. Anzi, con una battuta e chiudo, direi che è una questione di prodotto interno lordo. Ci ha lasciato con un bel interrogativo. Non so se lei potrà restare adesso all'inizio della seconda parte della trasmissione. Vorrei sentire intanto un ascoltatore. Abbiamo Anna Maria da Brescia. Buongiorno. Buongiorno, madre di due bambini piccoli. Sì, uno di 5 e uno di 7 e una di 5. Non avete problemi economici, ma dov'è il problema? Per fortuna no. Meno male. No, veramente, perché se non avessi fatto il lavoro che faccio, non avrei potuto avere neanche il primo di bambino, probabilmente. Ma il problema per voi qual è? Ma io quando ho avuto il primo bambino, ho detto, va bene, cerco un nido e ce lo metto dentro. Allora, il nido più vicino era a circa due comuni di distanza. E fin qua parte, uno si prende parte, ma in realtà, a parte il problema delle fasce orarie che vanno bene solo per i dipendenti pubblici, tipo quelli delle poste, o non vorrei diminuire quelli delle poste, voglio dire, se uno fa un lavoro diverso, con degli orari un attimino più elastici, perché sono dirigente ospedaliero, quindi faccio degli orari molto variabili, devo essere in ospedale alle 8, quando mi va bene finisco nel pomeriggio, altrimenti faccio anche le notti, faccio anche i pomeriggi, ma questo non è un problema dello Stato, posso capirlo. Però Anna Maria, le chiedo di arrivare velocemente al problema. È la domanda. Che era il doppio dei posti disponibili e ovviamente la priorità erano i residenti, quindi ero assolutamente fuori. Sono riuscita ad avere una babysitter a tempo pieno che costava circa 1000 euro al mese alla famiglia. Bisogna avere la disponibilità economica per farlo, certo. Quindi il problema di non trovare una sistemazione negli asili nido per questioni anche di tempi di lavoro, modi di lavoro, babysitter va ovviamente retribuita. Abbiamo con noi ancora per qualche minuto Isabella Rauti, capo dipartimento del Ministero Pari Opportunità. Ha sentito l'ascoltatrice di poco fa, diceva appunto flessibilità del nido perché non è abbastanza flessibile sui suoi turni di lavoro e poi... Prego. Ho sentito la signora Anna Maria di Brescia che tra l'altro in pochi minuti ha fotografato perfettamente la situazione, a parte che la signora è andata coraggiosamente oltre la statistica con i suoi due bambini, perché la media invece è di 1,33, però ha anche detto due cose: la quasi incompatibilità degli orari o comunque un impianto irrazionale, e poi ha anche detto il ricorso alla babysitter che alla fine praticamente quasi non consente di lavorare. Infatti lì ci dimostra quante donne lasciano madri lavoratrici lasciano il posto di lavoro dopo la nascita del primo figlio, anche perché si rendono conto che spesso economicamente non conviene. Volevo dire una cosa. Certo, poi è una scelta che però non conviene sul momento, ma alla lunga la madre, quando il figlio sarà indipendente, resterà senza lavoro. Certo, difficilmente si reinserisce. Infatti cerca di rientrare faticosamente spesso nel mondo del lavoro. Qui posso già anticipare due misure del famoso pacchetto di cui stavamo parlando, perché in realtà è venuto diciamo in automatico nel discorso. Innanzitutto rispetto al rientro, noi prevediamo dei corsi di formazione che favoriscano il cosiddetto retravailler, cioè il rientro nel mondo del lavoro. E poi un'altra cosa che posso qui anticipare: ci sono due misure nel pacchetto, almeno nella ipotesi che abbiamo oggi allo studio, uno che si chiama la misura dimmi chi sei, l'altro che si chiama la misura dimmi che sei Mary Poppins, perché in realtà noi ci siamo anche posti il problema che peraltro è emerso nell'intervento, ovvero sia il ricorso alle babysitter ma anche alle badanti. Noi pensavamo, ovviamente con convenzioni con i comuni e le regioni, di costituire albi elenchi, ma anche presso istituzioni, penso per esempio alla Caritas, ma naturalmente ci possono essere anche altre istituzioni sul territorio disponibili in questo, per raccogliere informazioni sulle esperienze lavorative pregresse, con un curriculum, con riferimenti, eccetera, eccetera, e anche una sorta di sistema di, come posso dire, certificazioni delle competenze, proprio perché in realtà ognuno di noi, anch'io sono madre ormai di un adolescente, ma evidentemente è dovuto crescere nel frattempo, anch'io spesso sono ricorsa, quasi non dico alla cieca, ma con un sistema di passaparola per cercare di trovare qualcuno che mi aiutasse nella crescita degno di fiducia figlio. Insomma anche. Sì, e lo facciamo tutte, tutte le famiglie fanno così. Allora, un'idea invece anche di sistematizzare, poi evidentemente gli aspetti degli orari, aspetti degli orari che però prevedono non solo un sistema di revisione dei cosiddetti orari e tempi della città, che è un discorso peraltro radicato nel tempo, ma che prevedano anche modelli di organizzazione del lavoro flessibili. E quando penso alla flessibilità, naturalmente penso a una flessibilità retta, onesta e corretta, non penso a una, quindi penso anche a una flex security, non penso a una flessibilità naturalmente con effetto boomerang, ma una sana flessibilità degli orari che però naturalmente prevede una modelli di organizzazione diversi, più posso dire più amichevoli rispetto alle reali esigenze delle famiglie. Ci sono anche da questo punto di vista delle buone prassi, però credo che insomma il cammino sia ancora lungo. La ringrazio, grazie mille anche di averci concesso questi 5 minuti in più del suo tempo. La voce è a retto, quindi tutto bene. Grazie a Isabella Rauti, ricordiamo, capo dipartimento Ministero Pari Opportunità. Dalla Zuanna, lei è ancora con noi? Buongiorno. Buongiorno, la ritroviamo anche perché prima, poco fa, abbiamo introdotto il tema che voi ben affrontate nel libro del mercato dei servizi privati e pubblici alle famiglie con i figli. Voi indicate tra le possibilità quella delle Tagesmutter, di cui parliamo tra pochissimo, altri casi così degni di nota in Italia che possiamo portare all'attenzione degli ascoltatori, o altre esperienze fatte in Europa, visto che voi su questo punto avete indagato bene. Sì, se posso, prima volevo dire una cosa a proposito di quello che ha detto la capo Prego. Dipartimento prima. Io sono d'accordo praticamente su tutte le cose che sono state dette, anche perché mi pare che siano in forte continuità con ciò che era stato fatto o si era tentato di fare nel poco tempo che ha avuto anche il governo precedente, no? Nel cercare di trasferire anche risorse, ma specialmente di mobilitare risorse sulla flessibilità dei tempi del lavoro, del tempo della famiglia. Sul discorso delle badanti ci sarebbe una cosa molto semplice che il governo potrebbe fare con poca fatica, che è cercare di regolarizzare le centinaia di migliaia di badanti irregolari che ci sono. Nel senso che in qualche modo bisogna tener conto del fatto che queste stanno risolvendo dei problemi enormi che le famiglie hanno, se no, per riuscire da un lato a tenere gli anziani in casa. Sì, forse anche per poter controllare non solo ovviamente regolarizzarle, ma anche sapere come lavorano, che lavoro fanno, che qualifiche hanno anche per questo lavoro. Dovremo anche forse su questo, io sono d'accordo nel mettere in piedi tutto ciò che viene fatto per migliorare la qualità, va bene, però la prima qualità la fa il mercato. Su questo non dobbiamo nasconderci, insomma, da sempre anche le famiglie, anche quando nei decenni passati c'erano le cosiddette donne di servizio, no? Nessuno si sognava di fare dei corsi per istruirle o cose di questo tipo. C'è un mercato, e se il mercato viene, come si dice, lo si lascia lavorare, anche le famiglie sono in condizione di scegliere. Non dobbiamo nasconderci che questa è la prima regolazione che può essere fatta. Se il mercato invece è un mercato sotterraneo, basato su delle leggi che non ci sono, basato sull'ipocrisia, come spesso in certi casi il rapporto con l'ingresso dall'estero, allora anche la qualità fa fatica ad imporsi. Ecco. Per quanto riguarda invece la domanda che mi ha fatto, in Europa ci sono delle esperienze delle più varie, naturalmente. Senza dubbio quello di cui parliamo adesso, quello delle Tagesmutter, è forse la cosa più interessante che si vede in giro, perché in altri paesi effettivamente sta funzionando. Di Colombo, no? Cioè, com'è che si fa? Si prendono delle signore che sono state mamme, che hanno ragazzi grandi, che si rendono disponibili per tenersi in casa 3-4 bambini. Questa ha, da un punto di vista economico, costa infinitamente meno degli asili nido. Mm-hmm. E nello stesso tempo, dal punto di vista dell'assistenza, è più diretta, più un'altra diretta, mamma. La qualità percepita anche dalle esperienze italiane, ma anche straniere, non è inferiore a quella dei nidi, questo bisogna dirlo fortemente. Ci sono però delle incrostazioni ideologiche che fanno sì che in Italia questa cosa faccia fatica di imporsi. Per esempio, faccio un esempio, nella regione Emilia-Romagna, ad esempio, sì. La regione per certificare in qualche modo il servizio di Tagesmutter richiede che le Tagesmutter abbiano un titolo di studio compatibile con le mamme dell'asilo nido, no? Con le maestre dell'asilo nido. Allora, quando io gli ho chiesto, ma una signora che ha tirato su 3 bambini, E che saprà cambiare grandi, un pannolone? Saprà non solo cambiare un pannolone, ma saprà essere con i bambini educatrice come è stata con i suoi. Certo. E là, la risposta è: ma i propri figli sono un'altra cosa. Allora, davanti a atteggiamenti di questo genere, evidentemente non si può fare nulla. Cioè, sono atteggiamenti che rischiano di andare verso anche il corporativo. Di questo parliamo tra pochissimo con appunto Caterina Masè delle Tagesmutter. Prendiamoci una boccatina d'aria, per così dire, e parliamo un po' di donne. Donne come erano, donne come sono. Con noi c'è Alina Marazzi, buongiorno. Ci sente? Molto lontano. Alina Marazzi è una regista, ha lavorato molto sul tema delle donne, sulla figura della donna, su quello che erano le donne prima e quello che sono le donne oggi. E tra le tante sue opere ricordiamo Vogliamo anche le rose. Sono ritratti di donne degli anni 60-70, ma quelle donne lì che lei ha ritratto così bene, come sono oggigiorno? Che donne sono? Pensiamo alle coetanee di quelle di... Sì, appunto, intanto non stiamo parlando di una storia di un secolo fa, ma solo di 30 anni fa, e quindi quelle ragazze ribelli degli anni 70, diciamo così, sono delle signore oggi, ecco, e quindi diciamo sono ritratti e voci e storie di donne che parlano di questioni ancora attuali. Ma che scelte hanno fatto, famiglia o carriera, quelle donne lì degli anni 60-70? Ah, qualcuna famiglia, qualcuna carriera, insomma, sono poi ognuno segue dei percorsi che sono anche percorsi personali, come dire, indipendenti da quelli che sono state magari percorsi di militanza politica o di scelta ideologica, quindi assolutamente hanno fatto delle scelte molto diverse tra loro, come peraltro appunto anche nel film che raccoglie testimonianze, pagine di diari reali di donne, insomma le esperienze sono varie e molto diverse, quindi non si può dire, insomma, generalizzare. Come artista lei però dovrà un po' ovviamente fare un po' la sintesi di quella che è la società. Le pare che le donne di oggi abbiano trovato un incontro corretto tra carriera, lavoro, figli, famiglia, oppure che stiano ancora dibattendosi un po' troppo, che non abbiano ancora trovato un equilibrio? Ma sicuramente si stanno ancora dibattendo, e come si dibattevano allora le ragazze si dibattono oggi, le giovani madri che si confrontano con problemi magari diversi, nel senso che magari hanno più autonomia di scelta per quanto riguarda il percorso di studio, di lavoro, però poi quando si trovano a dover conciliare quotidianamente gli impegni domestici e quello che vorrebbero dedicare appunto a... I mariti non aiutano molto anche nella sua... No, diciamo di no. Mariti, uomini, compagni, coloro che ci stanno vicino, ecco, comunque sono diciamo ancora un po'... Rispetto ad anni fa sicuramente la mentalità è cambiata, poi nella, diciamo, messa in pratica quotidiana mi sembra che le cose siano rimaste abbastanza uguali ad allora, cioè diciamo che tutto quello che riguarda l'accudimento, l'educazione dei figli, la gestione domestica ricade sempre sulle spalle delle donne, che siano le donne lavoratrici che a loro volta si fanno aiutare appunto dalle donne immigrate, si parlava poco fa appunto di badanti e colf, è sempre una catena, come dire, che poi coinvolge altre donne che a loro volta hanno lasciato al loro paese i loro bambini ad altre donne, nonne, zie, e quindi insomma la parte maschile è ancora troppo poco, diciamo, un po' debole su questo fronte. Poco coinvolta, forse poco responsabilizzata su questo aspetto. Io ho l'impressione un po' opposta, ma magari ne parliamo poi con le ascoltatrici che sono, e la ringrazio Alina Marazzi, so che anche lei è di corsa per un altro intervento, grazie per essere stata con noi. Io ho un'impressione un po' opposta, cioè che gli uomini oggi, i compagni, i mariti, i padri in generale, siano diventati molto bravi con i bambini, un po' meno bravi sulle faccende domestiche. Come dicevamo, subito con gli ascoltatori, Luisa da Roma, buongiorno, il suo problema e sulla sua domanda. Buongiorno, io sono una mamma di 4 figli, quindi una mamma acrobata, se vogliamo dire così, in una grande città, e volevo evidenziare un ulteriore problema per quanto riguarda le mamme in genere, quindi diciamo ancora di più per una mamma che ne ha 4. E nel momento in cui con le acrobazie si è riusciti a sopravvivere, si è riusciti a trovare un lavoro, diventa discriminante averli questi figli, perché sia per farsi assumere che per crescere all'interno di una un'azienda la donna con dei figli è la donna con problemi, così definita, e quindi la discriminazione potenzialmente problematica, mai. Certo. Questa era la sua parte questione che volevo evidenziare di tutto. Io richiamerei, grazie per l'intervento, Luisa, richiamerei il professor Dalla Zuanna, ha sentito l'ascoltatrice, insomma quando uno li ha poi diventa un problema per l'azienda, sia quando resta in azienda, sia quando va a cercare un lavoro. Beh, anche su questo punto si può intervenire, a vostro parere, a suo parere? Ma anche qui forse... Allora, ci sono due punti. Uno è il discorso, chiamiamolo, di tipo culturale, cioè nel senso che evidentemente qui c'è un problema legato proprio al fatto di come la società vede la donna, di come la società e la società in generale, ma anche gli imprenditori e tutto quanto il resto. Poi però c'è anche un problema pratico e su qua effettivamente la legge e la politica ha tanto da dire, cioè nel senso che non possiamo chiedere all'imprenditore di farsi carico di problemi che non sono suoi. Mm-hmm. L'imprenditore cerca giustamente di massimizzare i suoi profitti e anche se ovviamente deve guardare anche al benessere dei lavoratori e tutto quanto il resto, non gli si può chiedere di assumere una persona che può avere un rapporto di forte intermittenza con l'azienda quando l'alternativa è assumere una persona di un altro tipo. Il caso del libero professionista è qui pone un'ulteriore complicazione, direi. Ma guardi, allora, in realtà è tutta una società che deve cambiare. Si, prima citava... Voi scrivete anche una società che deve partire dai bambini, cioè deve spostare il focus. La dottoressa Rauti parlava prima di flex security, no? E la strada che è anche quella indicata dall'Unione Europea, quella che è praticata anche in altri paesi. Noi sul libro diciamo che bisogna stare attenti perché non tutti i paesi sono uguali, no? Però su queste cose qui guardiamo quello che si fa da altre parti, per esempio il part time dovrebbe essere una cosa che all'azienda conviene, non che l'azienda viene in qualche modo penalizzato se lo concede. Capisce? Cioè, che il conviene vuol dire che bisogna introdurre alcuni incentivi fiscali collegati al part time. Questo viene fatto in paesi che hanno una produttività più alta di quella dell'Italia, come l'Olanda o paesi del nord Europa, quindi non è una scelta di paesi poveri o di paesi che non hanno di bassa tecnologia. Un'altra cosa che si può fare è organizzare la città a misura delle famiglie con i bambini. Da un'altra parte noi scrivevamo che può fare di più per le famiglie con bambini una pista ciclabile del bonus bebè, perché se io devo occupare un'ora del mio tempo per accompagnare il bambino a scuola perché non mi fido di lasciarlo andare in bicicletta, certo. No? Un'ora, se lei moltiplica un'ora per i 200 giorni di lavoro, diventano quasi 10 giorni all'anno che io passo in macchina solo per portare il bambino a scuola. E queste, se le somma tutte queste cose insieme, certo, alla fine cambiano. Quello che scaturisce è l'incompatibilità, e mi sento molto vicino spiritualmente a quella signora con quattro figli, avendone quattro anch'io, proprio diventa alla fine altro che mamme acrobata, si diventa mamme. Sì. Come si dice, mamma e anche papà stracci alla fine. Insomma, cioè non è facile riuscire a mettere insieme tutto, proprio perché ancora abbiamo una società che in larga parte è pensata per la famiglia dove lavora lui e lei sta a casa e quindi ha il tempo per badare, certo, per fare attività esclusivamente di cura. Caterina Masè, presidente della cooperativa Casa Bimbo Tages Mutter, l'abbiamo tirata in ballo tutta la mattina, adesso finalmente l'abbiamo in collegamento, buongiorno. Buongiorno, dunque il nome della mia cooperativa è Tages Mutter il Sorriso. Il Sorriso, aggiungiamo anche il Sorriso perché ci vuole, ecco, vista la situazione. Grazie, buongiorno. Buongiorno, senta, tra i tanti che ci hanno scritto per questa trasmissione ci sono anche quelli che invocano le mamme devono stare a casa 2 anni, perché se hanno i bambini devono badare a questi bambini e non lavorare, non pensare al lavoro. Voi avete state fornendo un servizio che va incontro alle mamme che lavorano e quindi... Mi piace commentare con lei questa cosa, lasciamo le mamme a casa oppure no? Ma io credo che ogni donna debba decidere qual è la condizione in cui sta meglio, quindi è importante che se una vuole possa decidere di stare a casa e attraverso il lavoro di Tages Mutter diventare una risorsa, cioè anche per altre famiglie, e comunque contribuire al benessere economico della propria famiglia. Così come è importante che una donna che desidera proseguire la propria professione fuori casa non debba rinunciare alla maternità semplicemente perché non ha la tranquillità, cioè non sa come poter realizzare, diciamo così, con serenità l'accudimento dei propri figli. Senta, è vero che vi vengono richiesti, alle Tagesmutter dei requisiti forse anche troppo alti per assistere alcuni bambini a casa propria? Ricordiamo, il numero massimo è 5, vero? Sì, allora dipende. In Trentino le ore di formazione sono 800, però l'accesso a questo percorso formativo è garantito indipendentemente dai percorsi di formazione fatti precedentemente. E quindi questo, pur essendo un impegno notevole, è possibile, diciamo così, iniziare questa professione per qualsiasi donna che a un certo punto della propria vita decida di voler fare questa scelta. Certo che invece l'esempio che veniva portato dell'Emilia Romagna esclude di fatto, cioè, tutte quelle donne che ad un certo punto, magari successivamente alla propria esperienza di maternità o altro, potrebbero decidere di imboccare questa strada e essere loro stesse risorse per altre donne. Sì, e portare e contribuire anche all'economia familiare, oltretutto. Certo. Fin dove arriva l'esperienza delle Tagesmutter in Italia? Cioè, geograficamente? Si sta diffondendo un po' ovunque, in realtà, perché noi abbiamo iniziato nel 99 e nel 2003 è stata riconosciuta attraverso una legge questa figura, benché vada detto che ancora oggi ci sono delle discriminazioni non indifferenti nell'accesso di fatto a questo servizio. E oggi c'è molte iniziative, c'è tentativi, diciamo così, di servizio, sono partiti in altre regioni, tra cui il Lazio, la Lombardia. Il sud, per chiudere, il sud in Italia, in Calabria. A Cosenza è l'unica esperienza, perché adesso la natalità è partita con grande entusiasmo, con una grande adesione, poteva essere molto interessante, però il mancato sostegno, diciamo così, alla quota, alla retta che le famiglie dovrebbero pagare, ha impedito poi di fatto la diffusione del modello con tutta la potenzialità che questo avrebbe potuto avere. Teniamo conto che lì sia le babysitter che gli asili nido privati hanno dei costi che non sono compatibili con una realtà di lavoro alla luce del sole. Cioè, quindi, se si vuole realmente promuovere questo, l'accesso al servizio deve essere sostenuto attraverso dei contributi alle famiglie. Grazie a Caterina Masè, presidente della cooperativa Casa Bimbo Tagesmutter Il Sorriso, come ci ha precisato. Grazie a Giampiero Dalla Zuanna per la pazienza che ha avuto con noi, per essere stato nostro ospite. Ringraziamenti per questa puntata vanno anche ad Alessandro Marcotulli, Marta Cagnola e Maria Luisa Pezzali. In regia c'è Giorgio Matè. A tutti un buon proseguimento d'ascolto. Viva voce.